Letture di Radio 24. Passa dalla marcia No Tav alle spiagge per VIP, parla di dittatura, ma poi non accetta critiche da parte dei suoi sostenitori. Prove di incoerenza per Beppe Grillo. Bello, il guru 5 stelle con il limone in bocca, il militante No Tav in cerca di voti nel bosco della guerriglia. Un'occasione da non perdere per uno che dalla ribalta TV con trasmissioni del tipo «Ve la do io l'America» è passato a quella populista del «Ve la do io la democrazia». Però stavolta non è andata tanto bene all'elfo della foresta incantata che ama le dorate spiagge della Sardegna. Prima una serie di equilibrate, si fa per dire, dichiarazioni tipo «Qui stanno facendo prove tecniche di dittatura» oppure «Se ci saranno dei feriti o dei morti, il vero mandante si chiama Maroni». Siete tutti eroi, state facendo una rivoluzione straordinaria. Poi una retromarcia da più confortevole sistemazione. Sono il primo a condannare e a voler sapere chi sono i Black Bloc. Li trovino e li arrestino. Ma è proprio la sua rete a rivoltarsi contro il guru che cerca di mettere il cappello politico a un movimento che vorrebbe rimanere libero. Tal Alessandro Carrieri scrive sul blog di Grillo: «Bravo, prima cerchi di accaparrarti merito e patrocinio su un movimento che esiste da più di 10 anni e adesso dici che bisogna arrestare i Black Bloc? Gli si contestano le riunioni a porte chiuse, le nomine, le scelte imposte da Grillo o dai fratelli Casaleggio che gestiscono la strategia mediatica del comico. Lui non gradisce e alle critiche risponde con poco dialettici vaffanculo. Da quinta stella dello charme». Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Fabrizio Paladini, Ve la do io l'incoerenza, da Panorama del 13 luglio. Le donne che nel corso della vita sono state grasse conquistano più facilmente delle eterne magre. È il risultato di un esperimento condotto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Liverpool. A 106 uomini è stata presentata la foto di una donna corredata da una breve biografia con alcune differenze. Ad alcuni si è raccontata la storia di una donna che in passato pesava 100 kg, ad altri di una donna dal peso costante nel tempo. Le ex grasse sono state valutate amichevoli, disponibili ed emotivamente stabili. Forse il motivo di questa valutazione positiva sta nella sensazione inconscia nell'uomo di avere qualche possibilità in più di conquista, ma è comunque una sensazione non condivisa dall'universo femminile. Lo stesso esperimento, svolto su 96 volontarie, ha ottenuto il risultato opposto. Forse per timore della concorrenza, le donne valutano le ex grasse come delle disordinate, instabili e perfino poco sane. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefania Mascetti, Le ex grasse piacciono di più, da Vanity Fair del 13 luglio. Considerati di cattivo gusto fino a qualche anno fa, gli animali impagliati sono tornati a riempire le case dei VIP e a ispirare le opere di artisti. Sono tornate di moda le corna. Favorevoli o contrari che siate, se ne vedono in giro un sacco di questi tempi e se ne vendono anche. Costano da pochi euro fino a 100.000 e oltre. La tendenza è partita dai paesi anglosassoni. Se storicamente primeggia l'Inghilterra dall'epoca vittoriana e darwiniana, oggi è l'America a stabilire il trend. In maggio si è tenuta a St. Charles, Missouri, la 15ª edizione degli World Taxidermy and Fish Carving Championships, manifestazione che ogni anno attira tra i 1.000 e i 1.500 espositori. Il chairman dell'organizzazione, Larry Blomquist, che è anche editore della rivista del settore Breakthrough Magazine, ha una sua teoria. Questo rinnovato interesse, che da una decina d'anni coinvolge anche il pubblico generalista, cioè di non cacciatori, io lo chiamo The Hemingway Mystic. Hemingway aveva reso glamour la passione per la caccia e la pesca, decorando le sue case con i trofei dei suoi viaggi. Oggi molti antichi patrimoni familiari vengono venduti e gli oggetti sono accessibili anche al di fuori della cerchia stretta degli appassionati. Così, quello che fino a qualche anno fa era considerato il trionfo del cattivo gusto torna a farsi vedere nelle townhouse, nei ristoranti, nelle magioni dei VIP di Hollywood. Tra i fan c'è Dita Von Teese, che si è riempita la residenza di uccelli impagliati, cigni e pavoni, ma anche babbuini e cinghiali contesi nell'accordo di divorzio da Marilyn Manson. Più stupore ha suscitato Amanda Seyfried, la biondina di Mamma Mia, che mentre si trovava a Londra per le riprese di Cappuccetto Rosso Sangue, ha speso migliaia di sterline per un cavallo imbalsamato da spedire nella sua casa di Los Angeles, dove terrà compagnia ad altri equini di varie dimensioni, tutti già morti da un pezzo. Tra i collezionisti si contano anche Sir Peter Blake, Kate Moss e Banksy. Questi ultimi due, però, acquistano soprattutto opere di artisti come Polly Morgan. Da Catalan, scoiattoli, cavalli, asini, a Damien Hirst, squali e tori, l'animale imbalsamato ha fatto la fortuna di più di un enfant terrible dell'arte. In Inghilterra, anche grazie all'effetto Hogwarts, vanno a ruba all'asta le creazioni vittoriane di Walter Potter. E il Little Shop of Horrors dell'art dealer Victor Wind, con i suoi ratti mummificati e le coppie di volpi imbalsamate, è la meta dei socialité di Bethnal Green a Londra. Qui nelle case Wunderkammer di artisti quarantenni compaiono anche piccoli rettili e teste di scimmia. Fagiani fanno capolino dai caminetti di giovani coppie e nei bagni, in un curioso gioco studiato per lo specchio, troneggiano palchi di corna. Nel club milanese La Casa dei Demoni, dello scenografo e PR Oliviero Leti, c'è una stanza interamente rivestita di teste di cervi, cerbiatti. Quanto costa questo sfarzo? A far salire il prezzo sono la presenza di corna e la rarità dell'esemplare. Da Dayroll, un negozio storico di Parigi, un orso bianco si paga 45.000 euro, un leone 26.000, una piccola giraffa 25.000. Tutti gli animali, viene specificato, provengono dagli zoo. In Italia, osserva Ciro Troiano dell'Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV, la tassidermia rimane un fenomeno di nicchia, interessa soprattutto i musei. E per fortuna, spesso dietro si celano il bracconaggio e l'importazione illegale. La LAV ha una sua precisa opinione sul tema. Spogliato di ogni intento di divulgazione scientifica, l'animale morto è il frutto dell'arroganza dell'uomo sulla natura. Un trofeo del genere è l'antibellezza per eccellenza. Qualcuno lo spieghi a Marilyn Manson. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Pia Capelli Bellezza bestiale, dal numero di giugno-luglio del magazine Intelligence in Lifestyle. La sinistra ha fatto della difesa del corpo della donna uno dei suoi cavalli di battaglia nella recente campagna elettorale. Ma la sua idea della donna come qualcosa da tutelare e difendere dà origine ad un moralismo che finisce poi per scontrarsi con la realtà dei fatti, come dimostra lo scandalo del film porno girato dalla segretaria del PD o la donnina con le gonne al vento che campeggia dal poster del Festival dell'Unità. Sin dal caso Noemi, la sinistra italiana ha assunto la difesa del corpo delle donne, rivendicando la propria superiorità morale rispetto ai costumi sessuali del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. E tuttavia, nel perseguire il proprio obiettivo politico di travolgere l'avversario battendolo su questo campo, e cioè nel condannare, nell'organizzare, nel veicolare l'indignazione, ha favorito la strumentalizzazione di quello stesso corpo esibito in modo voyeuristico sui giornali, nei talk show televisivi, sui siti, in un incessante gossip giudiziario, una pletora di intercettazioni svelate pubblicamente che ha sporcato tutto e tutte senza risparmiare né ragazze dell'Olgettina né consigliere regionale né ministre. E tuttavia, nel tentativo di rovesciare il potere combattendo sul corpo delle donne, questa sinistra ha finito per trascinare anche se stessa in un vicolo cieco, perché, ponendosi come censore delle deviazioni da un giusto uso del corpo, non può più permettersi di sgarrare dalla retta via. Nulla le può più essere perdonato e nemmeno può più concedersi il lusso ormai perduto dell'autoassoluzione. Così c'è stato un certo imbarazzo nella gestione dello scandaletto della giovane segretaria di un circolo PD di San Miniato in provincia di Siena, che ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico perché si è scoperto che era la protagonista di un film porno. Da un lato resta infatti uno dei fondamentali principi della sinistra, quello della totale autodeterminazione della persona. In questo caso il corpo è mio e lo gestisco io. D'altro lato prevale la necessità della coerenza con il nuovo rigore etico. Da qui i salti mortali degli esponenti locali del PD nel giustificare le dimissioni della ragazza. Si è allontanata volontariamente. Non l'abbiamo costretta noi ad andare. Girare un film porno era una sua libera scelta che ha coinvolto solo lei e non altri. È ancora regolarmente iscritta al partito. Commenta il deputato democratico eletto in Toscana e già responsabile della comunicazione del PD Gianni Cuperlo. Noi dobbiamo ritrovare una bussola su questi temi dal punto di vista politico, continuare a credere nella totale autodeterminazione della persona, ma respingere la mercificazione del corpo. Allo stesso modo, è stato illuminante il caso del manifesto per la Festa Democratica di Roma. L'immagine di una minigonna su un paio di gambe ragazzine e piedi che calzano delle ballerine sotto lo slogan «Cambia il vento». Un'immagine di per sé fresca e innocente ha suscitato un asprissimo dibattito interno sulla strumentalizzazione del corpo delle donne da parte della stessa sinistra. Quest'immagine rivela la totale incomprensione di quel cambiamento che si vorrebbe rappresentare, ha scritto la femminista Bia Sarasini. Mentre un'altra femminista, Franca Fossati, dice a Panorama: «In Italia non c'era un atteggiamento ipersensibile verso questi argomenti, però tutta la vicenda del bunga bunga, l'esagerazione di un femminismo in stile Repubblica e l'uso eccessivo della ribellione hanno fatto sì che si creasse un'ipersensibilità sulla rappresentazione, del resto mai pacificata tra le donne, del corpo femminile». Sul sito DEA, www.donnealtri.it, anche Letizia Paolozzi era entrata con Franca Chiaromonte nella discussione sul poster per la festa romana dell'unità. A noi il manifesto non pare né sessista né volgare, ma non è questo il punto. Il punto, piuttosto, è sul compito politico che si sono date quante hanno protestato. E se questo compito sia giusto, utile, efficace. O non si tratti piuttosto di un modo semplificato di fare politica che si scontra con le dure repliche della realtà. Realtà che è davanti ai nostri occhi. Una nudità pazzesca in autobus, per le strade, alla festa romana del PD. Aggiunge Paolozzi al Panorama. Il PD non ha mai messo a fuoco la questione delle donne. Continua a vederle come esseri da tutelare, difendere, includere con le quote, le pari opportunità e ora con la difesa moralistica del corpo delle donne. Ai tempi di Enrico Berlinguer si erano posti il problema del rapporto tra uomo e donna, ma poi è finita lì. Gli uomini non hanno mai veramente riflettuto sul corpo, mentre noi donne, aiutate dalla psicoanalisi e da tante forme di autoanalisi, abbiamo capito il modo in cui si passa dal desiderio al consumo. Abbiamo compreso quanto ne passi dall'ammirare un corpo femminile al volerlo possedere, sopraffare e schiacciare. E se la sinistra si gioca molta della sua partita politica sulle donne, quello stesso corpo può rivelarsi un boomerang pericolosissimo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Silvia Grilli «E la sinistra ora fa i conti con due corpi e due misure» da Panorama del 13 luglio.